Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Secondo me l'Italia in questi giorni assomiglia un po' a una tavolozza di colori. E per esempio c'è un filo che collega la storia del paese e si dipana nei momenti più bui. Ma non è il filo rosso dei racconti, il fil rouge, è piuttosto un filo nero che si chiama fascismo. È un fascismo che non è mai morto ed è sempre stato presente. Lo troviamo nelle stragi di Piazza Fontana a Milano, di Piazza della Loggia a Brescia, la stazione di Bologna, e arriva fino ad oggi nel cuore rosso sangue della capitale. A Roma, infatti, il fascismo in questi giorni si chiama Massimo Carminati, ex nero della banda della Magliana, ex NAR, tuttora capo di quella che lui stesso definisce il mondo di mezzo, citando il signor Reglianelli. Si chiama anche Gianni Alemanno, da giovane anche lui nero fascista, da vecchio con le parvenze di un democratico. Ma questo nero decide la politica di Roma, controlla gli immigrati, i Rom, gestisce, spartisce e corrompe. E qualsiasi sia il colore della casacca, la politica diventa arricchimento, al servizio del miglior offerente. E mentre il verde, razzista e leghista, abbraccia le pance degli italiani e ne scatena i più banali istinti, viene voglia di arrendersi e sventolare una bandiera bianca, dicendo che insomma in questo paese non c'è memoria storica, non ricordiamo nulla e non impariamo nulla. È come se avessimo sempre vissuto in un film noir, appunto, in cui abbiamo sempre trovato questo filo nero, questo film noir che percorre la storia del paese. Ecco, io credo che sia arrivato il momento che, invece di continuare a incazzarci neri, appunto, per continuare questa metafora di colore, forse è il momento in cui dobbiamo davvero cambiare le cose e ripopolare questo paese di tutti i colori della tavolozza. Buongiorno a tutti e bentrovati a Lucciole nelle Tenebre. Oggi siamo a farvi compagnia io Francesca, io Pietro e io Marta. Abbiamo questa new entry. New entry che prima era un po' timida ma adesso si è fatta baldanzosa. Oggi non vi parleremo della mafia nella capitale, come sembrava presagire il nostro incipit, scritto da Pietro, ma piuttosto del caso Eternit. Però ci sentivamo in dovere appunto di dare anche una nostra voce alle mille che in questi giorni si stanno susseguendo rispetto a questi argomenti che naturalmente colpiscono tutti gli italiani. Volevamo invece parlare del caso Eternit, parlarne ancora, nonostante la sentenza sia del 19 novembre, la sentenza di Cassazione, anche perché la cosa poi è caduta un po' nel silenzio, nonostante il primo appunto susseguirsi di sdegno mediatico. Tuttavia sono molte le persone che sono state colpite da questa sentenza, ma soprattutto dall'amianto e dalla fabbrica Eternit, che per anni ha portato migliaia di morti in tutta Italia, dal nord al sud, da Casale Monferrato all'Emilia a Rubiera, a Napoli con Bagnoli. E tutte queste vittime e i familiari delle vittime sono stati sicuramente colpiti da una sentenza che non affermava la non sussistenza del reato, ma negava la possibilità di condanna a causa di una prescrizione. La prescrizione naturalmente è un istituto del diritto essenziale, ma troppo spesso nel diritto italiano questa tutela dell'individuo, che naturalmente deve esistere, va poi a favorire invece degli abusi di giustizia e di diritto inaccettabili per tutti noi. Ecco, sì, infatti appunto citiamo questa sentenza anche perché in realtà nei primi due gradi, il primo grado e poi l'appello, era stato condannato Jimmy Dainey, anche il suo socio De Cartier, che poi è morto, era stato condannato in appello a 18 anni di reclusione, quindi si riteneva che giustizia fosse fatta e poi in realtà purtroppo è intervenuta la prescrizione. Ecco, noi, visto che abbiamo qua Marta, che oltre a essere una nostra presidiante e amica e anche fa parte anche del presidio di Casale Totò Speranza, insomma da casalese naturalmente ha vissuto in questi anni la vicenda Eternit da più vicino, volevamo chiederti anche se potevi farci una breve panoramica di quello che è stata la storia poi dell'Eternit. La storia dell'Eternit è, per me, cioè se comincio a parlarne è davvero lunghissima. Sforeremo quindi anche le altre trasmissioni, no, sto scherzando. Vai. Parleremo per ore e ore. No, quindi brevemente, per chi non sa di che cosa stiamo parlando, l'Eternit, oltre a essere il nome di una fabbrica, è il nome di questo materiale che è un fibrocemento, che è stato prodotto dall'inizio del 1900 in quantità sempre più grandi, poiché aveva delle proprietà molto persistenti. Eternit è da eternità, e quindi per queste sue proprietà è stato utilizzato nei tetti, nei capannoni, nei giardini, era ovunque in tutte le città, non solo a Casale da dove vengo io, ma ovunque in Italia è pieno. Tra l'altro scusa se ti interrompo, ma mi raccontava proprio oggi la mia ragazza che suo nonno aveva proprio il tetto fatto in Eternit, perché in quel tempo si usava, e quando era andata alla discarica del comune di San Daniele in Friuli gli aveva detto come lo smaltisco, perché poi era venuto fuori che era nocivo, e gli avevano detto fai come tutti, seppelliscilo sotto casa. Ecco, questa era la... Moltissime scuole ancora oggi hanno il tetto fatto di Eternit, anche case, era un materiale veramente usatissimo e in realtà effettivamente costa tantissimo smaltirlo e diventa più un problema rimuoverlo piuttosto che lasciarlo lì. Cioè, naturalmente l'ideale sarebbe smaltirlo, però per smaltirlo servono davvero tanti soldi, e figurarsi se vengono investiti in questo modo i soldi. Tantissime persone ancora non lo sanno che cos'è l'Eternit e quanto diffuso sia. Ok, adesso prima di continuare lanciamo una canzone che comunque è sul tema, così per cominciare a sentire proprio questo clima casalese. È una band appunto casalese e mi fa molto piacere lanciarla in radio. Sono i Fonema con Eterna Ingiustizia. Che nome ha il progresso? E quanto vale per voi l'aiuto promesso? Cosa può voler dire morir presto? E come chiamate voi un giusto processo? A chi è morto che cosa è stato concesso? La stessa cosa di chi è ancora vivo è l'asbesto. Chiamala come vuoi, ma per noi rimane tristezza. Chiamala come vuoi, ma per noi rimane immondizia. E dagli il nome che vuoi, che per noi rimane quello che è eterna ingiustizia. Che valore ha quel che è stato pianto? E se mi guardi negli occhi non sono ancora stanco. Non puoi comprare queste note perché non apprezzo il mio canto. Ma pagherete tutti per il vostro amianto. Chiamala come vuoi, ma per noi rimane tristezza. Chiamala come vuoi, ma per noi rimane immondizia. E dagli il nome che vuoi, che per noi rimane quello che è eterna ingiustizia. Ascolti me, altra la gente che ha contati morti, che è andata in aula miriade di giorni, anni di impegno tra mille sconforti e le sorti dei deboli e i torti dei forti si leggono indelebili sui loro volti. Il risarcimento per questi ricordi non può valere questo pugno di soldi, e le cose che rimangono e fanno più male, il picco di morti deve ancora arrivare. Da piccolo con l'Eternit ci andavo a giocare, e tutta questa merda da bonificare. Probabilmente io, probabilmente tu, difficilmente non ci penseremo più. Probabilmente mai, ma se ti ammalerai, allora dimmi come la chiamerai. Chiamala come vuoi, ma per noi rimane tristezza. Chiamala come vuoi, ma per noi rimane immondizia. E dagli il nome che vuoi, che per noi rimane quello che è. Che vuoi, che per noi rimane quello che è eterna ingiustizia. vuoi, ma per noi rimane tristezza. Chiamala come vuoi, ma per noi rimane immondizia. Dagli il nome che vuoi, che per noi rimane quello che è eterna ingiustizia. Allora, eccoci ritrovati. Marta ci stava appunto raccontando la storia dell'Ethernet a Casale di Monferrato, e una mia curiosità è anche un po' capire come le persone vivevano a quegli anni a contatto con questa fabbrica, e da quando insomma ci si è cominciati ad accorgere che poteva essere dannosa, e anche poi quando è iniziato tutto questo processo che ahimè si è concluso come sappiamo. Va bene, la fabbrica a Casale apre nel 1907, quindi io chiaramente non c'ero in quegli anni. Te ne davo di più, sinceramente. Non così tanti, però. Quindi posso solo raccontare i racconti che mi hanno dato, perché poi la fabbrica è stata aperta fino all'86, quindi comunque i miei genitori ci hanno vissuto. Casale veniva chiamata Città Bianca perché i militari, quando passavano, vedevano solo della polvere bianca, era tutto coperto di polvere. Casale era la principale fabbrica dell'Ethernet e quindi veniva prodotta veramente tantissima polvere che copriva tutto. Si racconta che le persone, gli operai, quando tornavano a casa dai loro figli, scuotessero il cappello che era pieno di polvere, che le macchine non potessero essere parcheggiate in alcune zone, tu non potevi parcheggiarla lì perché sennò dopo dovevi lavare, perché si riempiva di polvere, era tutto coperto di polvere. C'è stata maggior consapevolezza dalla fine degli anni 70, c'è stata questa idea che la fabbrica dell'Ethernet fosse in qualche modo legata alle patologie, che quindi l'amianto fosse pericoloso. Infatti adesso è provato che l'amianto causa l'asbestosi, che è una malattia dei polmoni, e il mesotelioma pleurico. Però a distanza di anni, no? Però a distanza di anni è stato provato. Il processo è cominciato nel 2009 e nel 2012 c'è stata la prima sentenza che ha condannato Schmidheiny, che è il proprietario della fabbrica dell'Ethernet, a 16 anni per disastro ambientale doloso. E poi, come diceva Pietro, è stata la condanna in secondo grado, è stata aumentata di 2 anni, quindi per noi è stato ancora un colpo più forte il fatto che fosse caduto in prescrizione tutto. Ecco, e passiamo ai giorni nostri, direi che... Sì, infatti il popolo casalese, come in realtà anche quelli di Rubiera, di Napoli, hanno reagito comunque a questa sentenza lapidaria, e a Casale si è tenuto, ci raccontavi prima, una conferenza il 4 dicembre che riguardava proprio la reazione della città a questa sentenza, dove hanno parlato un po' gli esponenti che in questi anni si sono battuti per la giustizia sull'Ethernet, e inoltre ha partecipato Don Luigi Ciotti. Sì, in verità la reazione della città c'è stata subito, cioè dopo il 19 novembre, quando c'è stata appunto la sentenza, la città il giorno dopo è stata chiusa per lutto, il sindaco è detto al lutto e sono state calate le bandiere a mezz'asta. Io non ero a Casale in quei giorni, però mi hanno raccontato che il clima era veramente surreale, perché era una città chiusa, hanno fatto una processione ed è stato un giorno per riprendersi. Dal giorno dopo hanno cominciato a reagire i miei concittadini, cioè ci sono molte battaglie adesso. C'è la possibilità che Schmidheiny venga chiamato davanti al tribunale dell'AIA per essere processato per i delitti contro l'umanità. C'è in corso un altro processo, sempre contro di lui, per questa volta per omicidio, non più per delitto ambientale. C'è la campagna di Libera, che Libera ha proprio lanciato all'indomani della sentenza, e che è appunto per cambiare la prescrizione in Italia, perché appunto in realtà la Cassazione non ha fatto altro che applicare il diritto, un diritto però, quello della prescrizione, che sicuramente è nato per tutelare gli imputati, per garantire la certezza del diritto, ma che poi si è trasformato, almeno nell'Italia odierna, in uno strumento che gli avvocati e gli imputati utilizzano per superare i processi. E tra l'altro in questo caso la prescrizione ci sembra ancora più fuori luogo, perché tra quando c'è stata la sentenza e adesso sono morte 5 persone per amianto a Casale, e il picco è previsto per il 2025, e quindi quello che sentiamo noi è com'è possibile che un reato che cade in prescrizione è un reato per cui la gente continua a morire? Tra l'altro il reato per cui sono stati accusati è il delitto ambientale, appunto, che in Italia in realtà non ha, è stato questo il problema nella sentenza Eternit, non ha una vera e propria configurazione. Infatti noi concepiamo come reato ambientale un reato che è solo eventuale, cioè finisce in un periodo di tempo molto determinato, è il crollo di una casa, per dare un esempio. Mentre il reato ambientale con cui noi ci dobbiamo trovare a combattere molto spesso, non solo col caso Eternit, è un reato che dà luogo a degli effetti a lungo termine. Marta diceva appunto che il picco dei morti sarà nel 2025, quindi fra ancora più anni rispetto alla sentenza di Cassazione. Ed è questo che secondo me rende necessaria l'abolizione di una prescrizione su un reato del genere, che deve essere naturalmente ripensato e riformulato per la giustizia italiana, perché è un reato del nostro secolo, di cui noi possiamo renderci conto e che forse prima non era concepibile. Adesso, con questa consapevolezza, non possiamo più tenere gli occhi chiusi. Nel ringraziare Marta per questa sua testimonianza, volevamo lasciarvi con questa prima parte della trasmissione facendovi sentire una dichiarazione che appunto ha lasciato la Romana, che adesso Marta ci spiegherà chi è. Romana è un po' il simbolo di questa lotta contro l'Eternit, perché è una signora anziana, e delle signore anziane non si dice l'età, che ha perso molti, molti parenti, tra cui suo marito e sua figlia, e nonostante questo continua a lottare, non ha perso la speranza e dà forza ogni volta che la vedi. A me trasmette un sacco di energia. Arriveremo una volta o l'altra a pretendere e a volerla la giustizia, perché noi abbiamo perso tante vittime, continuiamo a perderle, ma è possibile che non contano proprio niente? Noi vogliamo urlare che per noi sono importanti tutti. Io spero in voi, giovani, che veramente, preparandosi senza violenza, sempre senza violenza, prepararsi e pretendere con sicurezza ciò che ci aspetta di diritto. Vi lasciamo con un gospel natalizio, che sono Moses Smoke the Water, che poi è il titolo e non l'autore, in questo caso eseguita dai Golden Gate Quartet. The children all passed away. Well, Brother Moses smote the water, and the seas gave away. Sister, ain't you glad you passed that sinful army? Sister, ain't you glad that the seas gave away? Well, Brother Moses smote the water, and the seas gave away. Hey, Lord, the water, and the children Lord, all passed away. Brother Moses smote the water, and the seas gave away. Well, now God called Moses on the mountain top. Well, Brother Moses smote the water, and the seas gave away. Then he stamped his laws into Moses' heart. Well, Brother Moses smote the water, and the seas gave away. Well, Brother Moses smote the water, and the children all passed away. Well, Brother Moses smote the water, and the seas gave away. Hey, sister, ain't you glad you passed that sinful army? Sister, ain't you glad that the seas give away? Hey, smoke the water, and the children all passed away. Brother Moses smoked the water, and the seas give away. Brother Moses smoked the water, and the children all passed away. Brother Moses smoked the water, and the seas give away. Well, if you guess that before I do, well, Brother Moses smoked the water, and the seas give away. You may look for me, for I'm coming to. Well, Brother Moses smoked the water, and the seas give away. Well, Brother Moses smoked the water, and the children all passed away. Brother Moses smoked well, the water, well, and the seas give away. Hey, Brother Moses smoked the water, and the children all passed away. Brother Moses smoked the water, and the seas give away. Well, now, sister, ain't you glad you passed that sinful army? Sister, ain't you glad that the seas give away? Well, Brother Moses smoked the water, and the children all passed away. Brother Moses smoked the well, water, well, well, and the seas give away. Allora, nell'introdurvi oggi Buffier, volevo intanto dirvi tre cose che secondo noi non dovete assolutamente fare qua a Bologna. La prima, vai tu Fra. La prima è la mostra organizzata da Sgarbi a Palazzo Fava. Io sono della scuola di Italia Nostra e direi che non si va. Ok, poi la seconda secondo me è che non dovete assolutamente andare, cioè l'Unipol Arena sta organizzando col Cocorico, una cosa tamarrissima, portiamo il Cocorico a Bologna, non fatelo, cioè una cosa, lasciamo là le discoteche tamar nella riviera romagnola. E la terza e ultima notizia, le cose da fare, naturalmente, è Vasco che fa seconda data dall'Ara, perché c'è stato sold out il primo concerto, anche se secondo me sconsigliare zona bolognese Vasco tona. Invece vi consigliamo assolutamente di seguire il consiglio di Wuming di questa settimana. Wuming infatti si sono espressi con un'iniziativa estremamente interessante che chiamiamo per tutti Ugo. Ugo è una grande opera ed è una mobilizzazione che Wuming spinge in tutta Italia per i vari presidi cittadini, assemblee, nuclei di cittadinanza attiva diffusa, reagire agli scempi che stanno compiendo da anni e anni e anni in tutta Italia, seguendo la scia di quello che è il pensiero di Salvatore Settis e Tommaso Montanari, a noi molto chiaro. Esattamente, caro. Quindi i Wuming cosa ci dicono nel loro post? Andate a vederlo sul loro sito Jap, sul loro blog. Loro ci dicono che tra l'8 dicembre del prossimo anno, quindi a distanza di un anno, ci ritroveremo dopo che poi appunto dovremo organizzare manifestazioni in giro per tutta Italia, ognuno esplicandole come meglio crede, però dovranno essere cambiate le cose, perché siamo d'accordo che il dissesto idrogeologico, proprio in questa puntata abbiamo parlato tanto di reati ambientali, quindi non può davvero andare avanti così. Quindi l'appuntamento è l'8 dicembre dell'anno prossimo, ma direi che dovremo lavorare sì, tutto l'anno. Sì, bisogna lavorare tutto l'anno e arrivare con delle forme nuove, fantasiose anche, di reazione a questo sfacelo e veramente reagire a quello che viene imposto ormai da troppo tempo. Va bene, vi salutiamo e ci sentiamo venerdì prossimo. Sì, però io prima lancio l'ultima canzone. Voi non sapete, ma lei la sta cercando sul telefono perché non la sa la canzone. Ti dico io che è Tom Waits intanto, quello che può sapevo, aiutare. Però okay. Non mi ricordavo più il titolo. Vabbè, lo dirà a un certo punto Featuring la canzone. A Frame. Ciao, ciao. Ciao. Thank you. Ever since I put your picture in a frame, I love you, baby, and I always will. Ever since I put your picture in a frame, ever since I put your picture in a frame, ever since I put your picture in a frame. Mm-hmm.